Io addirittura sono dall'aprile dell'altra, da un anno a questa parte sono tornato a casa solo 10 giorni, quindi in realtà Torino purtroppo la viviamo molto poco. Noi siamo in tournée ormai da un anno e mezzo, da 20 anni siamo in tournée praticamente, io con un gruppo, con un altro, sono in tournée da 20 anni, anche gli altri, e quindi non è tanto abbandonare la città e viverla, è proprio il DNA della città che ci è rimasto dentro da quando siamo nati e che in qualche modo ci portiamo dentro. Che cosa rappresentano i Subsonica per Torino? Io spero che rappresentino una voglia di ricerca, di sperimentazione, lo stimolo che anche in una città, in un paesone, tra virgolette non tracciato dal commercio come può essere Milano o dai percorsi artistici come può essere Roma, si possa inventare, creare, si possa avere una forza vitale artistica. Questo è una cosa che spero che i torinesi che ci seguono e ci conoscono abbiano in qualche modo carpito. Pochi gruppi in Italia sono riusciti a coniugare il successo con la produzione indipendente e la ricerca musicale. Qual è la ricetta dei Subsonica da proporre ai giovani gruppi emergenti? Ma in realtà non esiste una ricetta preconfezionata, ogni gruppo ha un proprio modo di funzionare, quindi molto probabilmente quello che ha funzionato per noi non funzionerebbe per un altro gruppo. Quello che aiuta tanto è rimanere sempre attenti a quello che succede intorno e non farsi mai, e non allontanare mai le critiche, perché rimanere solidamente ancorati alla realtà ti permette di migliorarti, di crescere, di correggere gli errori. Questo è l'unico modo per andare avanti e creare della tua strada qualcosa di concreto. Quali sono stati gli errori e quali i più grandi colpi di genio di questi 15 anni? Wow. I colpi di genio sono sempre stati, se sono stati, sono stati sempre incoscienti. La musica è un gesto, credo, incosciente, per cui quando viene qualcosa che colpisce, che tocca, che arriva più di altre cose, non è stato molto pensato, cioè non è stato pensato più di tanto, è spesso legato all'istinto. Ce ne sono state alcune cose che hanno segnato, ogni disco me ne viene in mente uno che in qualche modo possa rappresentare un periodo. È una fortuna avere un colpo di genio, però è anche una ricetta, nel senso che bisogna sapersi mettere nelle condizioni di essere colpiti dal colpo di genio. E gli errori invece che riconoscete? Errori, ci sono moltissimi errori che si possono fare. Un errore che ha condizionato gli ultimi anni della nostra vita è stato quello di lasciare in mano a persone al di fuori dalla famiglia, cioè al di fuori del gruppo, la responsabilità di gestire e sostenere l'andamento emotivo, economico e funzionale del gruppo. Noi abbiamo, a un certo punto, abbiamo iniziato a ragionare come i gruppi famosi, tra virgolette, e abbiamo preso un manager e abbiamo delegato completamente. In realtà abbiamo sbagliato, perché abbiamo ricevuto delle grosse bastonate dai nostri manager, che hanno fatto un loro percorso senza nemmeno rendersi conto di quello che volevamo fare noi. Ora ce ne siamo resi conto e gestiamo in prima persona i nostri traffici, diciamo. E qui arriviamo al libro Elettrica Vita, che è uscito da poco per Mondadori. Tu spieghi quali sono le tentazioni del mondo dello showbiz e come non cadere in tentazione. Io in realtà non spiego un cazzo, perché non ho niente a spiegare, però racconto quello che è successo a me, quello che ho vissuto io, e che comunque è un punto di vista che mi ha dato la possibilità di vedere delle cose che magari molti ragazzi più giovani di me che si affacciano in questo mondo non hanno avuto. La musica è un istinto, è una scintilla che nasce dall'emozione umana. Nel momento in cui questa emozione viene trasformata in necessità di guadagno, in necessità di esposizione, in qualche modo viene mortificata. Ecco, questa mortificazione va evitata da chi difende, da chi scrive, da chi vuole avere una vita musicale, e quella è la cosa più importante secondo me, difendere la propria scintilla creativa. Era la testimonianza di uno dei grandi gruppi della nuova scena del rock italiano, cioè i Subsonica, ai microfoni di Nicola Accardo e a Italia in Controluce. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.